brutta storia, ragazzi, brutta storia. C'ho delle storie, ragazzi, c'ho delle storie tese. C'hai delle sbarbe a mano? No, c'ho delle storie. Fatti questo slego. 1, 2, 6, 9! Benvenuti a tutti in questo nuovo programma che si chiama, almeno attualmente, Pareri Discordi. Ciao a in tutti. Cui, diciamo, ciao. Ciao a tutti. In cui cercheremo, siccome è anche il nostro primo tentativo di fare radio, quindi per ora cercheremo, poi magari un giorno diventeremo migliori, cercheremo comunque di analizzare... cercheremo di analizzare un po' quelli che sono i temi settimanali da vari punti di vista. Per esempio, il mio sarà un modo, cioè sarà un approccio comunque basato un po' sulla politica, sostanzialmente. Mentre, per esempio, Umberto, te di che ci parlerai? Allora, l'idea sarebbe di parlare dell'unica cosa che penso di sapere un po', la tecnologia. La tecnologia e più in generale, ecco, la critica radicale alla tecnologia, però, esatto, non cerchiamo di dare il benvenuto a qualsiasi cosa arrivi senza nemmeno pensarci sopra un po', perché secondo me sarebbe un grosso errore, ecco. Sì, sì, sì, sì. E invece te, Gianluca, di cosa ci parlerai? Ma allora, in teoria la rubrica dovrebbe essere cultura e scienza, quindi si spazierà molto tra quelle che potrebbero essere implementazioni, automatizzazione del lavoro o appunto cultura anche di carattere generale, studi che sono stati fatti appunto recentemente che magari possono essere di rilevanza per quanto riguarda questa radio. Bene, bene, bene. Quindi direi di cominciare ad allietare le orecchie dei poveri ascoltatori che in questo momento di crisi hanno scelto deliberatamente di ascoltarci, perché ricordiamo, nessuno qui è costretto. Grandi, un abbraccio da Granada. Quanto è brutta questa fase 2, ragazzi, addirittura ci ritroviamo qua a parlare di queste cose. E quindi, dato che è la prima puntata, io direi di cominciarla con il tema caldo della settimana. Cioè, secondo voi qual è il tema caldo della settimana? Non lo so. Aish, sicuramente, dai, lo sappiamo. Sì, dai, effettivamente è Aish. Come si fa a non parlare di Silvia Romana? Dai, ormai ne parlano tutti, e sicché anch'io in un certo senso mi sono riproposto di parlarne, e sono vari giorni che cerco di leggere degli articoli su internet o sulla carta stampata senza sinceramente trovarne uno che reputo vagamente decente, quindi comincerò a leggere degli estratti da alcuni articoli, quelli un po' più validi. Vai. Allora, da dove cominciare? Allora, comincerò da questo articolo di Alberto Negri del Manifesto di qualche giorno fa, che dice: dopo anni di dibattiti su come contrastare la radicalizzazione, dovremmo avere imparato qualche cosa. In questo caso il ruolo della Turchia è stato così evidente che senza nulla togliere ai servizi si doveva liquidare la faccenda velocemente, ma il ritorno è stato gestito come un reality show. Silvia Romano non era ancora decollata da Mogadiscio quando già da noi planavano gli avvoltoi sull'ennesimo inutile e putrescente dibattito, che non ci sarebbe neppure stato se al centro non ci fosse una giovane donna, per di più una volontaria convertita all'Islam. Nessuno aveva sollevato la minima obiezione per i ricatti pagati per liberare in Siria Sergio Zanotti o Alessandro Sandrini. Anche lui sequestrato in Siria è tornato convertito, persino radicalizzato. Una buona notizia come la sua liberazione è stata gestita malamente da un governo affamato di consensi. L'hanno esibita come un trofeo e ora forse dovrà finire sotto scorta per gli insulti sul web. Le polemiche sul riscatto e su cosa facesse in Kenya non hanno alcun senso. Silvia è stata sequestrata nell'area dei Giriama, popolazione assai mite e ospitale che ben conosco, da una banda venuta da fuori, capeggiata da un somalo che si è volatilizzato con una cauzione di $25,000, un'enormità da quelle parti. Questa è stata la vera anomalia. Quello invece che dovrebbe interessarci, dice, è il dato politico di una vicenda dove ha giocato un ruolo determinante la Turchia, il suo alleato Qatar, i nostri rapporti con l'estremismo islamico e l'arretramento della politica estera italiana su tutti i quadranti. Poco importa la cifra pagata, tutti gli stati occidentali, Stati Uniti compresi, pagano per liberare i propri connazionali, negando pubblicamente di averlo fatto. Hanno negoziato anche quelli che proclamano ipocritamente. Con i terroristi non si tratta. Gli americani, infatti, nel 2014, pur di liberare in Afghanistan il militare Bo Bergdahl, consegnarono ai talebani 5 dei loro capi che erano detenuti a Guantanamo. E hanno pagato francesi, inglesi, spagnoli e tedeschi, eppure nessuno ha scritto che i loro governi stavano finanziando i jihad. Qual è la differenza a questo punto? Sta nel protocollo adottato da gran parte dei paesi occidentali. Non ci sono o quasi immagini del rientro del sequestrato, non si lasciano dichiarazioni e conferenze stampa. Da molto tempo negli USA, ma anche in Europa, si evita persino di riprendere i funerali dei militari caduti sul campo. Tutti sanno che servono come strumento di propaganda dei jihadisti. Dopo anni di dibattiti su come contrastare la radicalizzazione, dovremmo aver imparato qualche cosa, non solo. Nel caso di Silvia Romano, il ruolo della Turchia è stato così evidente che senza nulla togliere ai servizi si doveva liquidare la faccenda velocemente. Il ritorno è stato gestito come un reality show, con dichiarazioni del capo del governo e del suo ministro degli esteri, applausi e abbracci, per non parlare dei verbali davanti al giudice. Dopo 3 ore erano sui siti di tutti i giornali nazionali, come se Silvia invece di una deposizione riservata avesse fatto una conversazione con il portinaio sotto casa. Misuriamo il contesto politico, con i jihadisti non solo negoziano tutti, anche noi, altrimenti non si spiega soltanto la sicurezza, non si spiega soltanto con la sicurezza il fatto che l'Italia, terra di passaggio, sia stata tenuta fuori dagli attentati che hanno devastato l'Europa. Appunto, questo era un estratto dal manifesto che adesso andrò a concludere con un articolo uscito sul nuovo numero di Internazionale di Annalisa Camilli, che sostanzialmente dice, appunto, data tutta questa premessa tipicamente italiana dove le cose vengono gestite malissimo e questa ragazza è stata data in pasto alla propaganda, le vere domande a questo punto sono queste, secondo Annalisa Camilli. Le prime domande a non avere, allora, le prime a non avere il pudore del silenzio sono le autorità, che si mettono in bella mostra davanti alle telecamere al momento dell'arrivo. Di Maio indossa una mascherina con il tricolore, Conte diffonde le foto del suo colloquio con la ragazza dopo l'atterraggio, tutti vogliono alzare una bandiera su quella buona notizia. La questione diventa anche politica, perché è stato pagato il riscatto? Si tratta con i terroristi? Qualcuno scambia il sequestro di Silvia Romano con il caso Moro? Le vere domande avrebbero dovuto essere altre. Perché la ragazza è stata sequestrata? Quali sono le responsabilità dell'organizzazione per cui lavorava come volontaria? Cosa è successo in questi 18 mesi? Chi sono i rapitori? Qual è stato il ruolo dell'intelligence turca? Invece comincia un linciaggio ai danni dell'ostaggio liberato. Le autorità forniscono ai mezzi di informazione particolari che non avrebbero dovuto essere resi pubblici, come il colloquio tra la ragazza e la psicologa nel volo di ritorno, che è una cosa gravissima, e la sua conversione all'Islam. Daniele Raineri sul Foglio ha spiegato quanto tutte le informazioni che un ostaggio fornisce al momento della sua liberazione debbano rimanere riservate per lungo tempo. Innanzitutto e per lo più per ragioni di sicurezza. Inoltre c'è una strana idea di come una donna possa tornare da un sequestro di 18 mesi. Non è esattamente come tornare da un viaggio di piacere. Si può anche essere sotto trauma pesante se ha il diritto di essere lasciate a elaborarlo in pace. A questo punto rimane lo sbigottimento per la valanga di illazioni e insulti che hanno colpito Silvia Romano al momento del suo arrivo. In un paese cattolico come il nostro, dove le chiese riaprono prima delle scuole in nome della libertà di culto, si stenta a credere che si possa criticare la scelta di una donna di convertirsi all'Islam, dopo essere stata nelle mani di un gruppo di terroristi e che ha raccontato di aver letto il Corano per 18 mesi. Eppure l'abito, il jilbab verde, che non è un abito tradizionale somalo, come ha spiegato, con cui Silvia Romano scende all'aereo, turba i commentatori italiani di tutte le provenienze, quelli di destra, di estrema destra, ma anche moderati e progressisti. Il suo velo diventa l'insopportabile simbolo di uno scontro di civiltà che va in scena ancora una volta sul corpo di una donna, trasformato in un terreno di battaglia, con tutto l'armamento ideologico, ormai quasi prevedibile, della peggiore islamofobia. Si confonde l'Islam con i terroristi islamici, si mette in discussione che la scelta di Romano sia stata libera, la si accusa di essere un'ingrata, di indossare la divisa del nemico, e i più benevoli la contestano di essersi fatta strumentalizzare e di aver indossato la bandiera dei suoi aguzzini, cioè di aver veicolato senza saperlo il messaggio di propaganda di Al-Shabaab. Nessuno si chiede quale sia stato il ruolo dei mezzi di informazione invece nell'esaltare quel messaggio di propaganda, ancor più Infastidisce il fatto che, pur essendo una vittima, quella donna non mostri le sue ferite, non indugi sullo stereotipo della vittima, non pianga, non si lamenti e non mostri il dolore che ha provato, anzi si presenti in pubblico con un sorriso, lo stesso che si vedeva in alcune vecchie foto prima del rapimento. Ecco, questi sono, diciamo, i primi due estratti su Silvia Romano, o Aisha, lo deciderà lei, lo sapremo, spero, a breve, come preferisce essere chiamata. A questo proposito mi preme dire che, nonostante sia concorde comunque con questi articoli che ho letto, non ho ancora trovato un articolo in cui si parla di Silvia Romano nei termini in cui si parla di una vita da salvare, al di là del discorso religioso e di cittadinanza. Cioè, quello che voglio dire è che un discorso che dovrebbe valere anche per la questione migranti, braccianti, eccetera, cioè, ovvero riuscire a scindere per una volta il discorso economico legato al riscatto e quello religioso legato alla conversione. Quando si decide di salvare una vita, infatti, secondo me, qualsiasi sia il mezzo che viene utilizzato è comunque giusto, e da questo punto di vista non dobbiamo mai dimenticarci che il valore della vita è sempre comunque superiore a quello di qualsiasi altra regola del gioco mediatico, politico, economico o qualunque altra cosa veramente bassa e schifosa è stata messa in gioco in questa settimana dal rientro di Silvia Romano. Grazie. Io spero francamente che tutto questo si risolva con Silvia Romano che esce sul bancone con una chitarra elettrica, un amplificatore e che si metta davanti a tutti a intonare un pezzo della Madonna. Sarebbe molto bello. Tipo questo. questo è un pezzone dei CCCP. Bello, bello, sempre bellissimo sentirlo. Bene, ragazzi, continuiamo su quest'onda, su questa mala gestione da parte del nostro Stato, del nostro governo, di tutto ciò che non è campagna elettorale? Beh, direi che è molto attuale. sempre attuale. Quindi, cioè, a questo punto, perché non parlare della gestione quanto mai opinabile di questa pandemia che ci sta rinchiudendo tutti in casa a fare programmi radio ed ascoltare programmi radio? Quindi, allora, io continuerei con un articolo molto bello che si chiama "Le misure pandemiche non sono totalitarie perché in un potere totalitario ci siamo già dentro", di Gabriele Drago, che è un articolo che è uscito sulla piattaforma Che Fare, che è un blog comunque sempre piacevole da leggere. Gabriele Drago che cosa dice? Dice: "Il potere governativo nella pandemia appare come uno strascico del Novecento, forse bruscamente inserito da alcune analisi filosofiche all'interno di categorie politiche nelle quali si notano ancora forme ideologiche oppositive che alimentavano il movimento della storia, anche se la storia è chiaramente finita da un pezzo. Il virus apre delle ambivalenze epocali che si possono intravedere non solo nella difficoltà di comprendere filosoficamente e politicamente la condizione in cui ci troviamo, ma anche nella contraddittorietà delle misure imposte dai provvedimenti, che devono inserirsi nei sottili anfratti tra la libertà individuale e liberale alla quale siamo abituati e la presenza rigida dello Stato che torna a farsi sentire. All'interno del mondo globalizzato, per alcuni è come se il virus rimettesse in moto la storia, incarnandosi nelle forme dello spirito, direbbe Hegel, e imprimendo una nuova cesura allo spazio e al tempo. Tornano i limiti, i confini, i partigiani della quarantena e chi vuole aprire tutto, probabilmente leggeremo l'epoca con l'acronimo ACDC, ovvero avanti coronavirus e dopo coronavirus". Questo è bellissimo. "Mentre però il Papa conferma lo spirito dei tempi in una piazza vuota che diventa epifania del nichilismo reale, dell'uomo di fronte a Dio, cioè dello scandalo della coscienza dinanzi al nulla. Siamo al crepuscolo degli idoli", dice. "Mattarella non può andare dal barbiere, il virus contagia i capi di governo come le star. Da decenni, tolte alcune forme ideologiche adottate da un immaginario performativo corrisposto nelle vite bellissime degli influencer e dei self-made men, il nostro è ormai un mondo fatto di soli umani. All'interno di un quadro del genere, in cui come un ultimo respiro tornano differenze, limiti e opposizioni, è normale e ragionevole applicare schemi interpretativi di un passato recente, che si ritrovano a essere del tutto adeguati alla situazione, soprattutto quando si cercano i sintomi di un potere totalitario nell'azione di governo. Anche se l'evento pandemico e la conseguente quarantena galleggiavano già dentro il grande mare di un potere sconfinato, libero da vincoli territoriali, personali, identitari, c'è dentro un potere assoluto, che non si esprime più nei modi semplici della violenza o dell'oppressione con cui eravamo abituati a conoscerlo, ma che ha preso spazio dentro di noi nelle forme più sottili e complesse della libertà individuale. Il disordine percettivo nel sistemare concettualmente le cose può essere causato dalla compresenza di questi due mondi, che scivolano l'uno dentro l'altro, come è giusto che sia in un'epoca di passaggio come la nostra. Due mondi, quello moderno e quello contemporaneo, che appaiono entrambi validi per dare alle nostre vite una collocazione ben precisa, dentro uno scenario politico di sospensione giuridica e istituzionale. Il primo, secondo una chiave interpretativa che considera il nostro tempo ancora pienamente moderno, cioè governato da contrapposizioni rigide riemerse con l'arrivo della pandemia. La posa totalitaria assunta dal governo italiano prende i contorni tipici del contrattualismo di stampo hobbesiano e giusnaturalista. Maggiore il timore di morire, maggiore la volontà spontanea di affidare la nostra vita nelle mani di qualcuno che dovrà proteggerla. Questo modello sembra valido per spiegare il fenomeno, perché nella sua logica interna ognuno rinuncia a qualcosa, purché siano tutti a rinunciare, per affidare allo Stato la gestione dei rapporti fra gli individui, con lo scopo di uscire dalla condizione di natura dove vincono gli egoismi, i particolarismi, la legge del più forte, e accedere così allo Stato civile, regolato invece da diritti e doveri. Questa forma statale, che si basa sulla cessione di una parte della propria libertà a un'entità terza, ovvero lo Stato, offre in cambio sicurezza e protezione. Il sentimento sulla quale si fonda è la paura della morte, il timore di essere annientato dall'altro, della sua libertà infinita alla quale solo le istituzioni possono porre limiti. Maggiore sarà il timore di morire, maggiore sarà la volontà spontanea di affidare la nostra vita nelle mani di qualcuno che dovrà proteggerla. L'equazione di questo genere di Stato sembra una sintesi perfetta del movimento politico attuale, perché i termini sono salute in cambio d'obbedienza. Allo stesso tempo, il modello è talmente rigido che viene facile considerare questa situazione solo come un momento del processo della modernità, dove i limiti e le distanze erano ben definite, anche se adesso sono chiaramente dissolte. Inoltre, negli stati di eccezione previsti dal modello, come quello pandemico o come quello scaturito da una minaccia terroristica o dall'invasione dello straniero, per i quali non si sa mai di preciso né la durata né l'entità della minaccia, la paura della morte, del contagio estesa a un periodo di tempo indefinito, legittimerebbe lo Stato a sospendere i diritti, trovando pure il consenso dei cittadini, che spinti da un desiderio di conservazione di sé, gli affidano non più una parte della propria libertà, ma tutta la loro libertà. Come sappiamo, un'estensione spazio-temporale indefinita dello stato di eccezione è tipica di un potere totalitario, il quale, sotto la minaccia della malattia e della morte, ci fa apparire utili e incontestabili le misure proposte e ce le fa accettare mettendoci di fronte, nel caso pandemico, il sigillo della scienza. Questo approccio tipicamente moderno affida la tecnica di risoluzione di ogni problema, causando inevitabilmente la fine della politica. Il confronto democratico viene assorbito nell'unica parola di verità prodotta dal discorso scientifico adottato dal governo. La democrazia diventa allora davvero scientocrazia. Il rischio che si può correre, paventato anche da Agamben, è ridurre la vita umana a mero dato naturale, in nome di una salute organica come campo di governo dell'esistenza. A questo punto la riduzione su scala biologica di tutto ciò che concerne l'umano spinge nel renderci simili a un virus e nel sottoporci agli stessi accorgimenti che si avrebbero con una molecola o con una pianta. Le conseguenze di un discorso deumanizzante del genere hanno avuto nella storia risvolti terrificanti. Basti pensare alle giustificazioni scientifiche del Terzo Reich. Vabbè, ovviamente, come ammette anche lui, è un esempio, insomma, un po' forte, però era giusto per far capire un po'. Inoltre, ridurre la vita umana a biologia significa ucciderla prima ancora che muoia, perché la vita non è fatta di sola biologia, né di sola scienza il suo significato. Togliendo il fatto che noi con il virus non abbiamo nulla a che fare, a parte esistere sullo stesso pianeta. Assecondare un approccio del genere significa deresponsabilizzare la politica per affidarla a espedienti tecnico-scientifici di governo e tirarsi fuori da responsabilità storiche per dare la colpa dell'ecatombe a uno stupido virus senza cervello, il quale non sa pure di esistere e che dopo averci eliminato non subirà nemmeno un processo. È inutile ribadire che il virus è innocente come uno tsunami, amorale come un filo d'erba, la parte più umile della natura non considerata nemmeno vita, ma un meccanismo biologico il cui unico impulso, la sua unica funzione, come ci informa anche Zizek nel suo ultimo libro Virus, è replicarsi. Ma c'è colpa solo dove c'è coscienza. La storia giudica gli uomini perché sono loro a farla. L'obiettivo polemico allora deve essere un altro, altrimenti l'angoscia, la paura senza riferimenti, la rabbia contro qualcosa che non può essere responsabile di questa condizione ci sommergerà e ancora una volta non troverà nessuno a cui affidare il riscatto. Diciamo di essere la specie più intelligente del pianeta, conclude. Gli unici che possono farci fuori siamo noi stessi. Degli esiti di questa pandemia qualcuno dovrà risponderne. E di certo non potrà essere il virus. Cosa sarà che fa crescere gli alberi la felicità, che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100? Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco, a dare la morte per un pezzo di pane o un bacio non dato? Cosa sarà? Svegli al mattino e sei serio, che ti fa morire ridendo di notte all'ombra di un desiderio. Cosa sarà? Che ti spinge ad amare una donna bassina perduta, la bottiglia che ti ubriaca anche se non l'hai bevuta. Cosa sarà che ti spinge a picchiare il tuo re, che ti porta a cercare il giusto dove giustizia non c'è? cosa sarà che ti fa comprare di tutto, anche se è di niente che hai bisogno? Cosa sarà che ti strappa dal sogno? Oh, cosa sarà che ti fa uscire di tasca dei no, non ci sto, che ti getta nel mare, ti viene a salvare? Oh, cosa sarà che ti dobbiamo cercare? Che dobbiamo cercare? Lasciare la bicicletta sul muro e camminare la sera con un amico a parlare del futuro. Cosa sarà questo strano coraggio, paura che ci prende, che ci porta a ascoltare la notte che scende? Oh, cosa sarà quell'uomo e il suo cuore benedetto, che è sceso dalle scarpe dal letto, si è sentito solo, e come un uccello che in volo, e come un uccello che in volo, si ferma e guarda giù. Buonasera, buonasera, siamo tornati adesso su Radio Barrio e dopo le sobillazioni e le notizie riportate da Nicola passiamo alla tecnologia, parliamo di tecnologia, parliamo anche di coronavirus e allora come si fa a non scadere nel banalissimo e parlare subito di Immuni, dell'app Immuni e del contact tracing proposti dal governo italiano e da tutti gli altri governi mondiali come misure di contenimento del coronavirus. In cosa consiste? Consisterebbe nello sviluppo di un'applicazione scaricabile volontariamente che tenga traccia dei contatti che prendiamo con le persone che ci stanno intorno attraverso il Bluetooth del telefono. Ora, il dibattito politico sulla questione è stato estremamente lungo e complesso, con risvolti internazionali. Non vorrei andare troppo approfondire su quel tema, un po' perché lo trovo un po' noioso, un po' perché si può fare molto meglio sulla newsletter di Carola Frediani, ad esempio, che consiglio a tutti di leggere, o sul bellissimo articolo uscito su valigiablu.it, Immuni, l'app di contact tracing di Bruno Saetta, dove appunto si ripercorre tutto il dibattito politico che c'è stato negli ultimi mesi sul tema. Ma ecco, come funzionerebbe esattamente questa applicazione e quali sono le opzioni possibili che abbiamo per svilupparla? Ora, inizialmente erano state proposte tre opzioni possibili. Diciamo che queste opzioni si possono catalogare sulle coordinate di centralizzazione e decentralizzazione. E che cosa significa? Centralizzazione significa che un'entità centrale, ad esempio lo Stato, offrirebbe un server, ovvero un computer fisico proprio, dove vengono collezionati tutti i dati delle persone e vengono salvati lì a disposizione del governo. La versione decentralizzata invece vorrebbe che i dati non vengano salvati su un computer centrale governativo, quanto piuttosto sui dispositivi mobili di ogni persona che decide di installarla. In questo modo le informazioni riguardo ai contagi resterebbero in mano a chi ne è direttamente interessato. Nonostante fosse stata proposta una versione totalmente decentralizzata all'inizio, alcuni stati, tra cui ricordo sicuramente la Francia, l'altro non ricordo se è l'Inghilterra o la Germania, gli stati hanno rifiutato a un certo punto questa versione totalmente decentralizzata che era stata proposta per virare invece su una versione centralizzata. Nel momento in cui si sono resi conto che tutti quei dati potevano farli comodo per tante altre cose, oltre che fare comodo alle persone stesse, no? Alle dirette interessate. Ora, fatto sta che, ironia della sorte, una volta abbandonata la soluzione decentralizzata che era stata proposta, Google e Apple si attivano a proporre un'altra versione decentralizzata e quindi nell'enorme contraddizione chi in questo momento vorrebbe garantire più privacy sono proprio Google e Apple, che dire, i paradossi a volte. Comunque, cosa succede? Perché Immuni? Parliamo prima dell'Italia. Immuni in Italia è stata scelta perché era la soluzione sviluppata da privati, da una società che si chiama Bending Spoon, cucchiai che si piegano, che a me fa sempre venire in mente il Pokémon alla Kazam, non so bene perché, però... o i dinosauri, non so se ti ricordi. Oddio, cosa mi hai tirato fuori? meraviglioso. Comunque, fatto sta che in Italia chiaramente ci sono state tantissime critiche per aver scelto subito quell'app. Prima si criticava il ministro Pisano perché ci stava mettendo troppo a scegliere un'app, dopo si critica il ministro Pisano perché ha scelto un'app invece che un'altra. L'altra opzione era Covid App, che ancora non era pronta. Fatto sta che al momento ci troviamo con Immuni come unico candidato. Cosa succede con questa app? Succede che a un certo punto questa applicazione dovrebbe mandarti un alert nel caso in cui tu ti sia trovato in prossimità con una persona contagiata o che è stata in prossimità con un'altra persona contagiata. Cosa succede quando ti arriva l'alert che ti dice sei contagiato col coronavirus? A parte le bestemmie, che cosa succede? Beh, ancora non è chiaro. Nonostante si sia parlato molto dell'idea che ci fosse una azione legale che immediatamente si mette in moto nel limitare la libertà di azione dell'individuo che ha contratto il virus, da un altro punto di vista, al momento non è ancora prevista alcuna relazione specifica tra l'app e il sistema sanitario nazionale, ovvero non si attiverebbe nessun meccanismo giudiziario automaticamente ad oggi. La questione resta comunque fondamentale perché una decisione presa da un algoritmo potrebbe determinare la limitazione della libertà di una persona. E questo potrebbe anche essere determinato da un falso positivo o da una serie di falsi positivi che si susseguono, facendo accumulare svantaggi socialmente ed economicamente alle persone e quindi, insomma, rischiando di perdere non solo ovviamente la credibilità, ma anche di avere effetti materialmente negativi. Adesso, un'altra cosa di cui bisogna parlare per forza è questa cosa del funzionamento dell'app. Ma funzionerebbe davvero? Prima di tutto dovrebbe verificarsi una condizione fondamentale, ovvero che almeno il 60% delle persone la scarichi. Cosa che è altamente improbabile, visto che parliamo di milioni di persone che non ricevono un immediato beneficio, ma piuttosto, ecco, il contrario. E questo ci lega anche al problema di prima. Cosa succede se ci sono falsi positivi

Allora, quindi per concludere il discorso, parliamo di come determina questa meravigliosa applicazione la distanza che c'è fra due persone. Lo determina attraverso l'intensità del segnale Bluetooth. Adesso la cosa veramente interessante da sapere è che il segnale Bluetooth non è assolutamente della stessa potenza per tutti i modelli di telefono. Non è la stessa potenza se ti trovi dentro casa o se ti trovi fuori casa. Non è la stessa potenza se hai attaccato le cuffie oppure no, se hai il telefono in risparmio energetico, se stai usando altre applicazioni. Se l'antenna del telefono è di una marca piuttosto che di un'altra e dov'è posizionata all'interno del telefono e in che modo stai tenendo il telefono, ce l'hai in tasca, ce l'hai in mano, l'intensità cambia, è tutto molto arbitrario. Questo non sarebbe nemmeno un problema poi se si guarda al reale problema, ovvero i telefoni non sono in grado di comunicarsi col Bluetooth se non si trova un protocollo specifico, ovvero per questo problema del non poter utilizzare il Bluetooth se l'app Immuni non è aperta, cosa succede? Che l'unico modo per poter cambiare questa cosa è riscrivere il protocollo Bluetooth. Questa cosa dovrebbe essere fatta da Google ed Apple in accordo. Quindi, fino a che non c'è un protocollo sicuro, testato e funzionante, che ancora non è nemmeno un prototipo, per adesso l'app Immuni ce la scordiamo e forse va bene così. Per cambiare un po' di tema e smettere di parlare sempre solo di virus, parliamo un po' di cosa sta succedendo all'estero. Non sono proprio notizie allegre, però diciamo che è bene ricordare che c'è sempre qualcuno che ci prova a distruggere internet. E infatti Business Insider oggi pubblica un articolo dove riporta che il senatore americano Mitch McConnell ha provato oggi a far passare una legge che permetterebbe di ottenere l'intera cronologia dei cittadini americani senza un warrant, ovvero senza un ordine del giudice, ovvero a discrezione di chi sta facendo il controllo. Le implicazioni di questa cosa ovviamente sono enormi, non c'è nemmeno bisogno di stare a descriverle, ma la cosa buona è che buona parte dei senatori sia da destra che da sinistra in America si è opposta alla proposta. Concludiamo con un'altra bellissima notizia dal nostro eroe preferito Elon Musk. Elon Musk riporta Vice, notizia del 12 di maggio 2020, offre ai lavoratori di Tesla un'offerta che non potranno rifiutare. Tornate al lavoro violando il decreto sicurezza della California oppure restate senza paga. Che dire? Un gesto filantropico, ancora gesto una volta, nobile. Sì, si dimostra una delle persone, ecco, che vogliono veramente cambiare il mondo in positivo. Un eroe. Sì, ecco, un eroe dei nostri tempi, ecco. Ma per parlare di eroi dei nostri tempi e smettere di guardare soltanto alle brutte notizie, è uscito in questi giorni un videogioco nuovo e parliamo anche di videogiochi perché ci piace giocare, perché ci piace cazzeggiare ed è giusto così e non vedo che male ci sia. E esce questo videogioco che si chiama Tonight We Riot, stasera ci ribelliamo. È un videogioco che, a detta della stessa casa produttrice, deve essere un gioco di sinistra non apologetico. Il gioco è un gioco a 16 bit, per intenderci la classica grafica del Super Nintendo, dove tu vai in giro con una bandana che ti copre la faccia e una bandiera rossa con una stella nel mezzo a liberare fabbriche e lavoratori e lavoratrici delle grandi corporation che si uniscono a te in un brawl di strada, accompagnato da questa musica synthwave anni 80 che trovo estremamente piacevole, E in pratica bisogna ribellarsi alla polizia, sfondare le barricate, ci sono varie armi, varie possibilità di portare avanti questa missione. E niente, mi sembra... E il gioco come finisce, lo sappiamo? Purtroppo non l'ho ancora finito, ma io spero che finisca bene, spero come tanti altri che finisca bene. E niente, quindi concludo ricordando a tutti che è giusto ricordare che abbiamo dentro amore, ma abbiamo dentro anche la rabbia. Amore e rabbia. E adesso un altro piccolo problema tecnico prima della prossima canzone e l'ultima sezione di cultura e scienza. In arrivo tra poco. Vediamo se ce la facciamo. Non ce la facciamo! Non ce la facciamo, ragazzi. Non ce la facciamo. Bellissimo. Eccola. Questi erano i frammenti con Amore e Rabbia, una specie di cover degli Aria. E adesso passiamo la parola a Gianluca. Eccoci tornati per l'ultima sezione, la rubrica quindi Scienza e Cultura. Si parla di un argomento che credo ultimamente ha preso sicuramente sempre, che è quello del reddito universale di base. Questo è un ambito su cui sono stati condotti certamente molti studi, tra cui molti sono ancora in corso, e appunto è un argomento che anche in Europa sta prendendo molta attenzione. In Spagna sta avvenendo sicuramente spinta questa cosa, anche la Scozia la sta cercando di portare come una priorità a livello politico, e anche il Papa in Italia ha appunto detto che forse sarebbe giunta l'ora di pensare ad un reddito universale. Quindi, per prendere uno studio che abbia sicuramente rilevanza a livello attuale, ho scelto quello della Finlandia. È uno studio che praticamente è durato 2 anni, nel 2017-2018, e dopo i risultati preliminari sono stati rilasciati anche i risultati quelli definitivi il 6 maggio 2020. Ora, ovviamente questi risultati sono stati anche spiegati in una diretta, tutto ovviamente in finlandese, quindi avremo anche possibilità di avere dati più precisi. Però l'idea è stata questa. Prima di tutto è importante a livello europeo, perché questo è il primo esperimento europeo appoggiato dal governo e quindi dal Ministero della Salute e degli Affari Sociali, un ministero finlandese, in collaborazione con l'Università di Helsinki. In questi due anni, quindi nel 2017 e 2018, sono stati presi due gruppi, un gruppo di controllo, quindi di persone normali in Finlandia prese a caso, sono 173.222 persone, e un gruppo invece di trattamento, quello a cui appunto è stato dato un reddito universale di base. A queste 2.000 persone sono state date non letteralmente un reddito completo, ma un reddito parziale, in quanto erano appunto 560 euro al mese per due anni, incondizionatamente dal fatto che trovassero meno lavoro, e quindi tutti avevano questi soldi in più alla fine del mese. Ora, sicuramente ci sono stati due aspetti principali su cui è stato portato avanti questo studio. Da una parte c'è il lato quindi di adattamento al mercato del lavoro, ovvero aiuterà le persone a trovare lavoro oppure diminuirà l'occupazione dando appunto un reddito di base. Dall'altra parte invece c'è l'aspetto più dello star bene complessivamente, quindi del miglioramento della qualità della vita delle persone. Ora, per quanto riguarda il primo aspetto, quindi delle giornate lavorative, si viene purtroppo anche pubblicizzato in senso negativo, perché non c'è stato un incremento di giorni lavorativi tra i due gruppi, quello di controllo e quello di trattamento, però allo stesso tempo vorrei far notare come non c'è stato un decremento, cioè non è che la gente allora si è automaticamente smessa di dare da fare o ha smesso di cercare un'occupazione semplicemente perché riceveva questi soldi, anzi la differenza è stata veramente minima, cioè di uno 0,38 percentuale, cioè veramente niente. I giorni lavorativi nel gruppo di controllo erano 49,25, mentre per quanto riguarda il gruppo che è stato considerato con il reddito universale di base, sono 49,64 giorni lavorativi, quindi fondamentalmente hanno lavorato alla stessa maniera, per la stessa quantità quantomeno. Quindi dov'è il vero guadagno nel caso, se vogliamo parlare di quello che è un reddito universale di base? Beh, lo studio in questo senso è stato chiaro, in quanto ha dimostrato come, almeno per quanto riguarda la propria percezione della salute, ad esempio, l'abilità di concentrarsi, quindi il focus, quanto uno riesce appunto a concentrarsi, a darsi da fare su quello che deve fare, la possibilità di trovare lavoro, quindi l'idea di avere una sorta di cuscinetto, così possiamo descriverlo, che comunque ti permetta di continuare a galleggiare, aumentava anche la propria percezione di riuscire a trovare un lavoro magari anche un pochino più gratificante. E quindi in questo senso vorrei aggiungere, aumenta anche quella che può essere definita una libertà positiva, ovvero riuscire davvero a decidere quale lavoro, scegliere quale lavoro fare, piuttosto che dover prendere il primo lavoro che ci viene offerto. Inoltre ha migliorato la percezione del benessere finanziario e chiaramente ha diminuito lo stress di questo gruppo rispetto appunto al gruppo di controllo. Quindi su 173.000 persone e più prese a caso, sicuramente sono dei numeri grandi che danno la possibilità appunto con una base randomica di trarre delle stime abbastanza precise di quella che era l'idea di come stavano vivendo la vita questi finlandesi. Quindi da un punto di vista di occupazione lavorativa, sì, non c'è stato un incremento, ma nemmeno un decremento, quindi non c'è stato un risvolto negativo. Dall'altra parte, quindi, da un punto di vista più sociale, c'è stato certamente invece un incremento nella qualità della vita delle persone. Ed ecco che mi viene da pensare, non ci trovo molto da opinare a tutto questo lavoro, in quanto mi sembra che in una società come questa, e ovviamente questi studi, ma anche questo argomento sta ritornando proprio anche per il discorso della crisi che sta portando questa pandemia, questo virus, quindi potrebbe aiutare in una società come questa, che già era una società frenetica e ora sicuramente offrirà ancora meno possibilità, sia per la crisi economica ma anche per quanto riguarda non so, una potenziale automazione del lavoro. Sicuramente ora c'è più lo smart working e anche le ditte saranno, immagino, incentivate in questo senso a diminuire il carico di personale, in quanto le persone stanno diventando, come giustamente diceva anche Nicola prima, essi stessi dei potenziali virus, quindi bisogna comportarsi come le persone, come ci si comporta con chi bisogna stare a distanza, e questo avrà un impatto sicuramente a lungo termine, proprio perché si cercheranno anche di normalizzare queste situazioni emergenziali. Quindi vorrei concludere con un'analogia che ho trovato molto interessante, ovvero pensare al reddito universale di base come una sorta di cintura di sicurezza per quanto riguarda il viaggio della vita. Ed è bella questa analogia della cintura di sicurezza, perché effettivamente come mai abbiamo le cinture di sicurezza su tutte le macchine, a prescindere? Cioè, non avrebbe senso, cosa che invece è come stiamo cercando di trattare questo assistenzialismo sociale, mettere le cinture solo nelle macchine che fanno l'incidente. Quindi dire, ok, lui non è bravo a guidare, ha fatto l'incidente, allora lui gli mettiamo la cintura di sicurezza. Sì, ok, però non è questo il modo giusto di affrontare il problema. Cioè, le cinture, se vuoi andare a giro, bisogna che ti metta la cintura e che tu sia un guidatore sicuro all'interno di quello che è il circuito di spostamento per quanto riguarda le macchine. Allo Scusa, stesso modo, fammi capire un secondo. Quindi l'idea sarebbe che la disoccupazione, il sussidio di disoccupazione sarebbe l'equivalente di mettere la cintura di sicurezza solo a una macchina che ha già fatto un incidente. Esattamente, proprio quello. Cioè, andiamo a vedere solo i casi problematici e lì agiamo come se si creasse un buco da qualche parte e andasse tappato quello. Ma invece creare una struttura che sia magari molto più resistente, o che comunque preveda il fatto che ci possano essere dei buchi nella struttura, è molto più saggio e quindi molto più previdente. Chiaramente qui si ritorna ancora al discorso di come non c'è guadagno potenziale nella prevenzione, e quindi qui il capitalismo purtroppo si gioca contro. Esatto. Bene, sì. A proposito di prevenzione vorrei aggiungere una cosa, perché dato che siamo finiti a parlare di prevenzioni, c'è una cosa che mi preme, che è successa questa settimana, che quindi vorrei spezzare una lancia in favore dei ragazzi e delle ragazze che sono state arrestate e arrestati a Bologna per terrorismo, e l'operazione che ha portato all'arresto ha fatto sapere la procura che ha una strategica valenza preventiva per evitare che in eventuali ulteriori momenti di tensione sociale causati dall'attuale situazione emergenziale possano verificarsi altri momenti di più generale campagna di lotta antistato. Ecco, quindi se questa è la prevenzione, insomma, forse bisogna ripensare davvero a tutto il sistema, perché non si possono arrestare delle persone per terrorismo semplicemente perché si pensa che possano reagire male ad una situazione emergenziale e possano forse eventualmente fare degli atti contro lo Stato. Sì, sono perfettamente d'accordo, è assolutamente senza senso questo continuare a pensare che è meglio avere una popolazione stupida con un buon controllore con un bastone che appena sbagli dalla bastonata, piuttosto che avere una popolazione informata e più sicuramente educata a sapere come comportarsi in determinati tipi di situazioni. Esatto. Ok, per cercare di anche tirarci un po' sul morale, chiuderei questa sessione con un pezzo di Rage Against the Machine, dove c'è fra l'altro un giro di basso bellissimo, sono un appassionato, quindi godiamocelo. Belli Rage Against. Take break it down. Class, but the lesson plan he can't recall. The student's eyes don't perceive the lies bouncing off every fucking wall. Closure is well kept, I guess he fears playing the fool. The place the students sit and listen to that bullshit that he'd learned in school. You're up, ain't my rope to swing on. Can't learn a thing from it, yeah, we hang from it. Gotta get it, put rubber band. Like a motherfucking rubber band. Expose and close the doors on those to try to strangle and mangle the truth. Bene, bene, bene. Bellissimo, bellissimo questo pezzo di Rage Against the Machine. Riprendiamoci un po' di potere. Ricordiamo che Rage Against the Machine erano... Il cantante di Rage Against the Machine era l'unica persona di cui il subcomandante Marcos delle EZLN, l'esercito di liberazione nazionale zapatista, si fidava per le sue press release. Infatti all'inizio dei loro concerti annunciavano le conferenze stampa delle ZLN, dell'esercito zapatista. Rage Against the Machine, che registrarono il video di Sleep Now in the Fire davanti a Wall Street, facendo sì che le porte restassero chiuse per mezza giornata, per poi essere scortata bellissimo dalla polizia. Ah, che belli gli anni 90. Ma va bene, dai. Salutiamo tutti quanti, allora. È stata una bella prima puntata. Sì, è stata una bella prima puntata, qualche problemino tecnico, un po' di impappinamenti. Rende tutto più reale. Vabbè, rende ci tutto siamo più reale. Ci siamo divertiti. Quindi grazie a tutti e a tutte le persone che ci hanno sopportato e supportato. Un saluto a tutti. Bella. E io direi di chiudere con un pezzo che riassuma un po' anche tutto quello che è venuto fuori da questa puntata. Hai carta bianca. Ho carta bianca. O rossa. Non lo so, mi sembra di aver capito. Vabbè, innanzitutto la notizia più bella di tutte è che il Papa ci darà il reddito universale, no? Beh. Abbiamo il nostro grande pilastro. Per restare in tema contraddizioni, Apple e Google ci daranno la privacy e il Papa il reddito universale. Ma sì, ma infatti concluderei con questo filo conduttore che ripassa indubbiamente The Rage Against the Machine, perché Gianluca, hai aperto un vaso di Pandora con i Rage Against, e chiuderei con un pezzo che ci ricordi a tutti che si può e dobbiamo scegliere qual è il nostro nemico, perché c'è, solo che in questo mondo secondo me si fa sempre più fatica a capire qual è, perché tutti provano a farti credere che sia quello sbagliato. Beh, ci siamo. Ci siamo. Bene, un saluto. Ancora, ciao a tutti. Ciao. Check this out. Yeah. your American dreams, all of which are American dreams.